Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ebbè, dormito sì. Ebbè, dormito sì. Domani, dormito, dormito sì. Ebbè, domani, dormito sì. Upo, dormito sì. Ebbè, domani, dormito sì. Apertore, gufo triste, dormito sì. Ebbè, domani, dormito sì. Ah, sono Maria, dormito sì, Figaro, dormito sì. Attenzione, Graziano Buffo, triste, dormito sì. Dormito sì. Attento, ehi, dormito sì, ehi, e tu dormito sì. Io sono addormentato, io sono dormito, so. Ehi, e tu dove sei? Assorto. Assorto, fai che cosa? A prendere l'acqua della billetera. Guarda che non hai bisogno tu, che tu sei già macchine. E tu non hai bisogno dell'acqua della billetera, tu sei già macchine. Hai capito bene bene? Attenzione, Gian Maria, dormito sì. Dormito sì tu. Oh, Graziano! Eia! Ma non c'è nessuno! Tu ti dormiti, sogno! Eiu! Ti sta di me al calduccio! No, ti sta di me al fresco, è in prigione! E ci abbiamo il tuo caffè, con il pasticcino! Non ti piglia un caffè di signore. Luca, non ci sei. Qualcuno c'è in linea? Trombi. Oddio, tu sei andato a Cimena. E più di un'ora a te, non entra nessuno. Io sono rientrato da qua, e a Giacciso, lo tiro. Boh, uno ha detto, ma noi la Luca, via va, a Luca, ma noi la Luca. Ciao, buonasera, scusate il ritardo, buonasera a tutti voi. Ciao, Vittorio. Gian Maria c'è. Ciao Vittorio. Dove ci trovi? Dove ce la trovi? Abbastanza bene, a Salesiani so. Bene, bene, bene, bene. Cosa Gian Maria, non t'ha inteso? Va bene, ho sempre in giro sei. Sempre in giro, come sempre. A Pigliafresco, là. Bravo, bravo. Bisogna andare. Ovvio, no, ma è una bella bassista. E allora, come c'è Graziano, poi sia a lupo. Una bella bassista, io non andrò. E allora, io stamani sono vestito, ero di controllo. E più, mi ha buccato d'ora al buzzo. A me che c'è assassino mi ha detto di andare pure al mese che entra. Senti, sta buccio va pigliato, boh, adesso c'è a menire sangue. Torna giù dalla maglia da Lubus, da pigliato, bobo. Ehi, vieni già ancora imburigliato a chi mi duri. Va deve andare a marzo, il 6, al mese che entra, boh. Cazzo, insomma, tutto lo sacco delle pigenti chi su è. Chi se si resta a pezzi, da poi si lo vendi. E allora, all'altro mese mi ha detto che mi fate camminare, lo so curì, che vi trento, vi sarà anche il macchinario, per vedere lo sforzo, capito, sotto sforzo, per darmi giusto la gradazione dell'ossigeno. Ah, ho capito. Io sono andato a, fare una famiglia patente, chiaro, grazie a cielo, sono cazzato di entrare, ma per la fila, vera, per la fila di gioco farà da va. Ehi, questo è un bel idiota, pure mi piglio una ce l'aveva rinnovata, non mi si è passato, mi va, alle punti per era andata. Ah, a me mi scagliava la vizzente di chi comesi, però sono andato oggi, sono andato. Capito, sicché ma cosa più tranquillo là, fatto per me se più, ma io che vado grazie al cielo sono andato, non devi fare di cose, la polizia, la finanza, le gambe, tutta lì devi andare. Ehi, no, io devo andare a fare questa da chi tu, degli invalidi, mi ha detto quelle visite, quella del pulmologo, del diabetologo e del cardiologo. La gente che non devi andare a torna a fare visite a regalare le visite, mi la già ricade subito, c'è a rivedere. Vedi una cosa, pulite la bottiglia, la pasta è semi, a rivedere. E me ne sono andato. Per carità, no. Non finire più, no, non finire più, è la maturia che si così, ogni pochissimo pure, cosa vuoi fare? Però per la salute bisogna fare tutti i sacrifici, purtroppo è così. Lo so, ma io mi sa che è tutto, andai turra, E da adesso tu lo fai, di male tu cadendi, ecco lo faccio per te. Però ripeto, per la salute bisogna fare bisogna andare e basta. Pure una settimana, si deve uscire, e chi dà ragione? Infatti non potevo, non mi sentivo di uscire, che ancora non mi sento tanto bene, però anche ma se lo esci stasera canduiscio, così che mi sono conosciuto quando c'è stasera. A risiquere che già ma per la fila. Ehi, no, la gradazione dell'ossigeno me l'ha abbassata perché ma dico da una parte fa bene ma anche da un'altra parte fa pure male, capi? Dunque devo fare questo esame camminando, non so se avranno qualche macchinario per vedere che gradazione mi deve prescrivere. A chi dici, non è che il malanno ce l'ha e se lo tiene, non è che guarisce, la dici mica già lo so. Fermo che cazzo l'analisi o cosa è, e il giorno che viene, sì, per la visita facciamo anche quest'altra visita e fai come ti divulgiamo. Insomma, grazie, chi ci vediamo a sette prima dell'ora? No, oggi vedano i due dottoresse, l'altra di veda un dottore, a chi di prima se ne è andato in pensione, chi ci va via prima. E vabbè un continentale, che dice che domani è dromme sempre lì. A chi se l'ha pignata allora mi hanno visitato due femmini, giovani. Insomma, tutto stanno visitato, no? Tutto qua, sono già erano giovani loro. E allora, ma dice si tolga il giubbotto, la felpa, sulla maglia. Ebbene, cioè, tacchi a petto nudo e insomma nudo, non ce l'hai visto. Ehi, tiri sulla maglia, no? Ehi, vabbè, lui ha per carità tanto c'è chi dà ragione, perché, cazzo, ma lui ha ormai gli uomini vanno a dare in femmina, non è l'uomini, li ritirano giù, sì. Se è uomo o femmina non bisogna avere più problemi, hai capito? Ma a me non mi sta lì, sa chi l'altra volta sono andato a vedere a chi mi va a chiamare sotto dalla base, Sono andato al pronto soccorso, mi ha mandato giù al piano. Avessi venire a fare l'ernia, io avevo anche dolore. E non mi avevano visitato un medico giù il Bizzini, Milani. Due ragazze. Dice, abbassi le mutande, le hanno passate gli dirani, i glucci puntati, tutte e due. Ehi, ecco questo. Certo, ma è così, allora. E perché che avevo il cooperativo, che l'hanno messo qua giù l'albero, e io non mi poteva morire, non finiva legge, due ragazze, e mi lavavano tutto, e mi rimettevano, come si chiama, il pannolino, tutto loro facevano, prima ti lavavano, dopo ti mettevano il pannolino, capito? Ma è così ormai, e chi dà ragione? Certo, quel malanno che fai a cosa a nudare i benselli. Ma una sera passa chitto con paraghicca in gamba e mi faccio il romaccio. La devo lavare, la gestiro, grazie a Dio rimane la braccia per lavarmi. E allora è andato da chitto, io sono vicino al vacco. E ha lavato anche, e paraghi subito anche il cano. Però visto che lì gli passava la cosa e lo faccio, lo lavavano anche dopo. E gli dammi la sempre a baite. E niente, lì domani vieni e lo lava chissà. E l'ha fatto, ma mi scusi, se sapevo che anche lei puliva. Anche io dicevo a pulirmi, adesso mi ha fatto bene, un ghigno mi ha fatto. Ma quando uno, si mollava, chi si caso, già faccio discorso, ma uno quando uno non si può muovere di nessuna maniera, è chiaro che ti fate il tuo, capito? Ma ti fate le femmine, capito? Perché l'uomo magari vede magari per aiutarti a girarti, ha capito? Perlomeno a me fa dire così, capito? Erano ragazze, non erano vecchie, erano ragazze, capitavo, il giorno qualche ragazza e qualche giorno persone grandi, capito? Ma è così, grazie, dai, chi c'è caso lui quando è malato, cazzo, è chiaro che non si è messo a uno, la cosa non è a niente, se ci sono la guarì e basta. Ehi, ma non hai compreso cosa da giudizio io mi la giudizio a buffonetti, tanto barria, io già mi rifondia, no? La giudizio che se lo sappia che pure è da puria, mi vede di dire che mi dobbiamo il buricuro a me, non hai compreso? E chi da quando io mi la giudizio, quando se ne era attento, se gli rate mi ha fatto un ghigno con un sorriso, hai compreso? Vedo poco quanto le interessava a me. No, come sta a dire, mia no, che ti attacchi tu, oltre a me, hai compreso? Ma è così, ma è già, oh, io, per carità, opa, io. Vediamo un po' se c'è Tore. Tore, oh, né Tore, né Macchisio, boh. Tutti a passeggio sono, ma chi se ne è messo la gara a fiori? Visto che io, beh, è scosso, siete gli unici che non mi hanno sentito, ma mi avete sentito. Già ti abbiamo sentito, il dottore sarà in Africa. Cosa invece sarà dentro una gara a fiori o una gara a crepa, ma chi se ho? Riprendimi tu! Eia, eia! E dai, grazie! Adesso ti vuoi cosa stai preparando a cena? Niente, niente, salotto, niente cena! E tu? Ma noi siamo come te, non siamo giovani come sei tu, no? Tu a te l'appetito già ce l'hai, noi non abbiamo appetito, non mangiamo la notte per tenerci leggeri, capito? Noi la notte la sorvoliamo, perché non abbiamo voglia, mangiamo bene a mezzogiorno, la notte niente, ci fanno fare un giro di tavolo, capito? Oggi, guarda, oggi a cena mi mangio un pochettino di pasta al sugo, il ragù, perché mamma ha fatto di nuovo il ragù, ha avuto di nuovo fare, perché fino all'altra volta ha fatto il sugo con la salsiccia, ci ha messo la salsiccia dentro, l'ha messa ben, ce l'ha fatta friggere e poi ci ha messo il sugo, ogni cosa ora. Poi, vabbè, l'ha giudito, si fa dare un ragù, vabbè, gliel'ha giudito io, se non ne ha dire manco un fatto. E ha detto, io fammi un po' di ragù, questo va bene, io così ti potrò... Sa tutto buono, importante, mi sarà appetito, e che si viene un sacchetto, questa è la cosa più interessante, l'appetito più... Mattia sei giovane, l'appetito è là, hai capito? Ma Graziano è della dieta, ma a me mi l'ha prescritto, però sono un brovente, ma mi pare che non riesco a fare la dieta. Graziano io non riesci. Eia, riprendo fra 2 minuti che vado in ufficio. Eia, vai. Oia, sono ormai già diventando vecchio, già ti ho visto di persona, ma si vede che non è mai finito come ce l'ho io. Io già sono giovane. Io. Ah, penso che è andato in ufficio, Graziano. Da rientra subito. Vediamo un po', attento a Marchisio, lettore del Marchisio. Tutti in giro sono, In effetti, chissà dove sono andati, a Coso, a Luca non si è sentito, nemmeno Bacchiglio. Luca deve essere mangiato pasta al forno, perché a lui gli piace molto la pasta al forno. Sì, mi ha giovanetta io lasciare la pasta al forno. Lui si accena tutte le sere e la mangia sempre, perché gli piace molto. Fa bene, dai. Vabbè, già fa di bene. Ma a me mi piace una testa, mi sa di grilli. Ehi. Aspetta che le chiamo là, al birichino, se c'è il macchinatore. Ehi. Ehi, attento Rufo, ci facendo c'hai? L'ora te l'ha fatta No, mi sa appena rientrato, siamo andati a vedere un lavoro. Luca, Cos'è? E che lavoro è lui? Ah, cambiare un portoncino. Domani lo fa. E allora? Ma sassa. Sì. Ehi, è la misura uguale. Poco travaglio per fare i buchi. 4 buchi a destra, 4 a sinistra. No, dobbiamo levarne quella che ce n'è una in ferro. Capito. E poi ci andrà quello che c'è tra le porte e a piattaggio. Ehi, vabbè, ma c'è la stessa apertura che non deve restringere o allargare, è veloce il lavoro. Bisogna allargare. Ma solo da una parte o da tutte e due le parti allarga, per il centro della porta? Se non sbaglio, no, per adesso bisogna stringere, non allargare, stringere. Fare una spalletta, adesso vediamo domani quello che c'è da fare. Ah, vabbè, un addio, va via. Poi la sera, verso le 6:30, così ci infilavo il portoncino piano piano, perché nelle gambe ci mettevo, lo facevo poco a poco. Il cemento rapido è normale, lo mischiavo per non indurirsi subito e tappavo le gambe di un fisico, ha capito, e pezzi di mattoni cugnato, messo a piombo e a lenza controllata l'apertura, tutto gas era a livello del pavimento, poi verso quell'ora la sera ci appiccavo il portoncino. Ciao Luca, come va? Luca, mica ti ha chiamato Vittorio. Sì, ciao Vittorio, E beh, Lu, metto la pace. Sì, appena rientrato sono. Cos'è? C'è la passeggiata da... Si è stancato, no? Sì, già non è una passeggiata. È travaglio, non è una passeggiata. Ah, travagliendi! Sì, avevo un lavoro. Sì, oia, mamma mia, per carità. E di mangi a cena oggi, Luca? Ma mi sa che oggi mi tocca una magna. Dice di tutti che ti canta questa magna oggi, mamma mia. Guarda, oggi ho preparato un pochettino di pennette, un po' di sciugo, da ragù. Tanto per la magna, sono magnuacro. Io a pranzo fusilli con sugo piccante, buon arrivo, buono. E invece, morto, martuglia, mamma mia. Boh, adesso non so se io decido di mangiare solo la pasta oppure il secondo, perché per secondo c'ho, mi, proprio ci ha conservato... come ci si chiama le fettine di cavallo da buio, tu mangio solo la pasta e basta, non c'ho tutta questa fame già, mangio porcheria a Rusalesiani, non è che sta questa fame ce l'ho addosso. Allora già va bene, le porcherie le mangiavo io quando ero giovane, patatine, ghitu, ogni tanto già le mangio, no che non le mangio, ma prima le mangiavo spesso. Mangiavo pasticci, un bel, e poi a cena mangiavo poco, polentine, cosu, ghidu, cioccolati, adesso sono più vecchiotto e sì, ogni tanto li mangio, ma no, no, quanti grandi più giovani. E lo sai che se ne mangiato oggi, che ci sono in Alaska, troppo muschiato, giusta. Che mi ha contento lo stesso. Lui! Troppo muschiato, cosa vuol dire? Questo è tu. Nei fiumi ci sono i topi muschiati, si chiamano. Tu mi asarro, se mi finì l'anno imbigliati, l'anno in mezzo sfogliato, e ci l'hanno sbranato, in padella. No, prima capito male, tipo topi, ma hai capito male quello che ti ho detto io. Ah, Gito, già mi ha contato lo stesso. Che non so se mangiare fette di cavallo, perché tutta questa voglia non è che ne ho, Ma lo stavo dicendo a te, ho detto quelli che vivono in Alaska, dove c'è il ghiaccio. Nei fiumi ci sono questi topi muschiati, li hanno cacciati e se li hanno cucinati e se li hanno mangiati. Ho capito, Oia, oia. E adesso che ne so, perché il mio telefono è scarico. Luca, va via la coda, 40 centimetri. Sì, buono, grazie. Grande buono. Che schifo, l'hai passato, è nata la barchetta. E si dà in bocci dentro un cagliaro. Quando sono arrivati a casa Zoia, alla bici l'hai culiati. E la porti direttamente dentro una cazzaruga. Una schifo. Sì, vabbè, quelli non sono di Fogna, attenzione, quelli sono di campagna, sono diversi. Quelli di Fogna sono malati, super malati. C'era un abisso, da quello della campagna, da quelli di campagna a quelli di Fogna. Sempre zarroni, precisi identici, anzi, questi sono proprio enormi, tugna zarroni. Si chiamano topi murciati. E dalla belliccia si fanno anche i capelli, i guanti. Sì, però non sono malati, capito, grazie. Invece quelli di Fogna sono malati. Quelli che vanno a usare le fogne sotto, mamma mia, sai quanti ne ha panichissimi maggiori, passigiani, più di uno, mamma mia, sarei morto. Io sarei morto sotto. No, dicevo vuoi entrare dentro a me a sistemare un tubo, ok? E allora, vedete che entrare a sistemare un tubo? Già mi è capitato lì, a Tiesi, quando stavo facendo le fogne, mamma mia, qua. Meno male dopo non ne sono usciti, ma esci tu altro dagli scarichi. Oh mamma mia, fallo! Oh, lo scarico ordinario! Ha già messo di sparato ma mamma mia! E poi dopo un lugarco collegato in tutto, quello di compagno che avevo fatto io in quella palazzina. Sarò caliti! E preso a bulla di un guasto, di un cazzo, di un dubbo! Mi devo venire alle 3.000, ci sarranno subito la giubbotta, un impatto, ci si gira lo zubo e tre blocchetti. E ci stappato subito. E c'era Vittorio che stava dicendo qualcosa, Vittorio. Te lo di Zenni, allora mi fanno sotto tutte e due, ci sono quelli di Fogna, di campagna. Ma vabbè, quelli di campagna non è che c'erano così... Cioè, non è che siano schifosi. Sono più schifo quelli di Fogna, perché non ben chi viene dalla Fogna, ma più schifo. Vabbè, e gli dicono, ehi, li fate mamma, uia. Mamma mia, diventa una statua. Non sa come ti falli in fila schivi. Ma non hai visto a Roma l'altra sera? C'è la notizia, Luca. Uno si è fermo e l'ha ripreso col telefonino dal cassonetto a 30 un muretto di una scuola. Minimo ne saranno passati un'ottantina di tutti gli imbezzi. Lo so. Grazie, solo chi sai cosa è il problema. Il problema è che... per la differenza, perché tu vedi il topo di Fogna e tutto quanto malandato, tutto quanto finito, invece quelli di campagna non sono così, diciamo, puliti, corto il pelo e fanno meno schifo, ma se tu vedi un topo di Fogna che tutto quanto finito, tutto quanto molto mari, questo sì, di maduri, mamma mia, voi Sant'Antonio mio. No, in campagna c'erano quelli piccolini. Ah va, vi saranno 15 gabbiette, ci sono quelle che vendono. Ogni tanto quando farà meno i bodos, quando scendo io qua, le controllo e vero giorno tu 30 molto baro, perché c'è il pezzo del formaggio velenoso, avvelenato. Loro si centrano a 30, mangiano i cribarini. Un tempo ce n'erano tanti, ma però tutti piccoli, di mezza minori, i topolini, topolini di campagna. Sì, sì, già lo so, vabbè, che casino, va. Quasi ne esci farigiani proprio, mamma mia, quasi impressione. Tra scarafaggi, ghisse, pucci. Una volta in campagna ero bussato, c'era un camminetto e intendia rumori, no? Così, graffiando. Ma vicino alla cucina, a pongolare, ci vicino intendia rumori. Ha aperto la gialla, sta chiudendo da fuori la cucina. L'ha già smontato, lo tappo di sopra, mi erano i viti. E però, sono chiuso, sono rimasto fermo, fermo, ma i denimi. E tu sono entrato, hai pigliato un ferro di un camminetto e l'hai giù picchito. Roba a macchi. Ci aveva fatto il buco dove c'è il portabombola, là sopra lì, si è mangiato la lana a vetro e si è entrato dritto. Cucci, no. Mia, la madre di Marina, mamma mia, se tu li parli di tuffi, ui, ti curi, mamma mia. Proprio ha paura, ha paura. A me fanno sotto schifo, ma tu vengo. È capitato che da giovane qualcuno l'ho incendiato, e più di uno. Prima ha bisciglito a quei piedi di roccio di qualche pietra. E poi un po' con l'alcol. Ragazzi, io chiudo che adesso vado. E dove vai? A casa. Ma non è entrato Gio Maria, grazie a Bacchisio. No, né Torre, né Battista, Gio Maria è entrato, poi è riuscito, poi non lo so se è rientrato e ha detto qualcosa, non l'ho sentito. No, io infatti questa cosina si la giù lampata. No, poi si è mai sta lampazzina, se la via lampata è questa cosina. E la nuova. Beh, ti credo. E si vede Gio Maria, Gio Mitoci. Oh! Mia lui, no, non è Gio Maria chi sono. Oh, è male, ragazzi! Sono che entrendi, boh? Ma chi è? Ah, baracchino sono. Vabbè, dai, io chiudo, Luca, ce la sentiamo domani, se coincide. Ciao Vittorio, ciao Luca, ciao chi è in ascolto, ciao Gio Maria se ci sei, ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie, a domani. Ciao, grazie, anch'io a farmi, ci sentiamo, ciao anche a Vittoria domani, ciao. Ciao, ciao Lu. Ciao.